Vangelo alla mano, per esempio Matteo 12:22. Vangelo alla mano, il cristianesimo non esclude la preghiera a Dio e il comando fatto al demonio perché esca dal corpo degli invasati. In pratica lo stesso battesimo, mirando a togliere qualsiasi forma di potestà demoniaca sui battezzati, è un esorcismo solitamente molto precoce. Nel codice di diritto canonico, d'altronde, al canone 1172 si dice che nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi se non ne ha ottenuto dall'ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza. Pio XII sarà stato quel che sarà stato, tiepiduccio per non dire remissivuccio nel difendere la causa degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, ma a quanto pare assodato, un tentativo per fermare Hitler l'ha fatto. Un bel esorcismo a distanza, o a debita distanza, allo scopo di liberare il dittatore nazista dall'impulso diabolico che subiva e in base al quale agiva, trasformandolo, se possibile, nel mite chierichetto che di certo albergava in lui. Tale distanza deve essere stata eccessiva e il tentativo, come purtroppo sappiamo, non andò a buon fine, ma l'episodio conferma ulteriormente l'ampio credito di cui la pratica godeva all'interno della Chiesa Cattolica. Il fatto di doversela vedere con il diavolo in persona fa dell'esorcista, ai nostri occhi ingenui, una figura fuori dall'ordinario. Ci se lo immagina talmente immerso nel suo arcano sapere, a contatto con tali innominabili orrori, quali ineffabili trionfi, che ci riesce difficile, se non impossibile, attribuirgli le problematiche più comuni, che so, per l'impiegato di banca, per il manovratore di un mezzo pubblico, per la casalinga alle prese con la borsa della spesa, o per chi, insomma, come tutti noi, vive una vita che il bisogno sociale di eufemismo vuole normale, pur scontrandosi quotidianamente con fior di demoni ed inferni. E invece no. Un'intervista a padre Gabriele Amort, un nome che sfiora il programma, fondatore e presidente ad honorem dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, mi apre gli occhi sulla loro reale e grama esistenza. Il Vaticano rinnova quel rituale degli esorcismi che volle Paolo V nel 1614, nomina una commissione e nessun vero esperto di esorcismi è chiamato a collaborare, risultando così questa commissione composta di incompetenti. Il risultato è che le preghiere più efficaci, quelle che avevano alle spalle almeno 12 secoli di storia di grandi successi, sono state cancellate dal rituale. Quelle di oggi servono a poco e niente. Non solo. Controfatture, maledizioni, riti voodoo, macumbe, malefici vari, oggi si fa espresso divieto di ricorrere all'esorcismo. E anche il rito del battesimo è stato peggiorato. La sicurezza del posto di lavoro, poi, mi si passi la metafora, è andata a farsi benedire. In nazioni come la Germania, l'Austria, la Svizzera, la Spagna e il Portogallo non si trova più un esorcista. La debolezza della categoria è ben rappresentata da quel sondaggio che appura come soltanto il 5% degli esorcisti francesi creda davvero nel demonio, mentre il restante 95% spreca i propri indemoniati mandandoli dallo psichiatra. Basta dire, infine, ecco, che ai veri esorcisti oggi viene proibito di partecipare alle udienze papali. Mentre ovunque monta il satanismo, dunque, la Chiesa stranamente abbassa la guardia, tanto da far rammentare quelle gravi parole pronunciate esattamente 30 anni or sono da Paolo VI, il quale, forse suggestionato dal modello narrativo delle spy story alle Carré, aggiungo io, il quale denunciava al mondo che attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Non tutto è zolfo quello che brucia, insomma, e anche la vita quotidiana dell'esorcista, come la nostra, è irta di miserie, gelosie professionali, tentativi più e meno corretti di mobilità sociale, sfiducia nel nuovo, lamentele, convinzioni relative a come si stava meglio quando si stava peggio, nostalgia dei bei tempi, soprattutto desiderio di contare di più. E dietro ci sarà il problema dei versamenti all'INPS, il rubinetto che perde, il virus che ti arriva con l'email che non c'è porco di esorcismo che te lo tolga, quanto costa un paio di scarpe, lui il vicino che ha più indemoniati di me, e magari qualche problemino di sesso. Tra i castelli romani e i monti prenestini, nel borgo medievale immerso nel verde dei boschi, a 305 metri sul livello del mare, a Zagarolo, esorcizzata con innegabile efficacia la molesta presenza di quella moglie che agli occhi della Chiesa costituiva un pericolo ben peggiore di qualsiasi diavolo, Milingo, il principe degli esorcisti, è tornato al lavoro. In confini angusti, forse, ma libero di esercitare le sue arti. L'incidente occorso gli è coinciso con il momento di crisi della categoria, ma il suo riciclo risulta perfettamente funzionale alla politica vaticana. Il potere temporale, il dominio della Chiesa sullo Stato e sulle sue istituzioni, una regolatina alla storia del mondo e la sua ripartenza dall'anno 1000 o giù di lì. Ultimo tango a Zagarolo, e riparliamone. Ultimo tango a Zagarolo è un film diretto da Nando Cicero nel 73, appena un anno dopo quell'ultimo tango a Parigi, diretto da Bernardo Bertolucci, che ne costituisce l'evidente matrice. Per una volta, a fianco di un Franco Franchi che dovrebbe fare il verso a Marlon Brando, per una volta non c'è Ciccio Ingrassia, che presumibilmente non avrebbe voluto correre il rischio di fare il verso a Maria Schneider. Nel 1975, tuttavia, Ciccio Ingrassia dirige e interpreta L'Esorciccio. E per un'altra volta la coppia si scinde, perché Franco Franchi non vi compare. Avevano girato insieme almeno un centinaio di film, forse di più, ma nell'ultimo tango a Zagarolo e nell'Esorciccio i due comici avevano fatto a meno l'uno dell'altro simmetricamente. La coincidenza va rilevata. Questioni di sesso e di esorcismi nel tentativo di buttarla sul ridere. La stessa medesima Zagarolo, dove molti anni dopo verrà confinato un vescovo esorcista cui sono stati fatti per l'appunto scontare alcuni peccati relativi al sesso. Come se in Vaticano un appassionato di cinema, magari uno di quelli passati attraverso quella fessura che Paolo VI non riuscì a chiudere in tempo, come se un appassionato di cinema sia stato ispirato da una relazione fra due film parodistici per scrivere lui una storia tutta nuova. Dove lo mandiamo l'esorcicio? A Zagarolo, dove vuoi che lo mettiamo? Una storia di esorcismi alla matriciana, dove non si tratta tanto di espellere il demonio dal corpo degli ossessi, quanto più chiaramente di espellere il sesso dal corpo di una chiesa ossessionata. L'ultimo tango a Zagarolo, presumibilmente dopo forti pressioni politiche, sociali, non ultime religiose, per rendere irriconoscibile la localizzazione, uscì nelle sale cinematografiche come Ultimo tango a Zagarol, senza la O finale. Detto tutto. Earlier, and I was telling you, it's all my life. I feel like life is really just like braided hair, cause it's so like twist. You know about braiding? Like twist, you know. Three strands twist together, and ultimately you get to where you want to get to, you know. From the same dirt, from the heels of my ancestors, the naked rose and